Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bel Ami di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Giunto sul marciapiede, Georges Duroy rimase un attimo incerto, non sapendo neppure lui che fare. Aveva voglia di correre, di sognare, di camminare a caso pensando al proprio domani e respirando l'aria mite della notte. Ma lo preoccupavano gli articoli che gli aveva chiesto zi Voltaire e decise di rincasare subito per mettersi al lavoro. S'avviò di buon passo, raggiunse il boulevard esterno e lo seguì fino a Ribourceau, dove abitava. Lo stabile di 6 piani ospitava 20 famiglie d'operai e di impiegatucci. E nel salire, rischiarando al lume d'un cerino gli scalini sporchi e ingombri di pezzetti di carta, di cicche, di bucce, fu preso da un violento senso di nausea e sentì impellente il bisogno d'uscir di lì, di avere anche lui una casa come quella dei ricchi, una casa pulita, piena di tappeti, un tanfo opprimente di cucina, di gabinetti e di umanità, un lezzo stagnante di sporcizia e di vecchi muri che nessuna corrente d'aria avrebbe potuto spazzar via, riempiva l'ambiente da cima a fondo. La camera del nostro giovanotto, al 5° piano, dava come su un profondo abisso, sull'immenso trincerone della ferrovia ovest, proprio a strapiombo sull'imboccatura del tunnel vicino alla stazione delle Batignolles. Duroy aprì la finestra e s'appoggiò alla ringhiera di ferro arrugginito. Sotto di lui, in fondo al buio fossato, 3 dischi rossi, fissi, sembravano gli occhi di un mostro. E altri se ne scorgevano più in là, e altri ancora più lontani. Duroy rimase a guardare il lungo rosario di vagoni imbucarsi nella galleria. Infine disse fra sé e sé: «Su, al lavoro!» Posò il lume sul tavolo. Ma al momento di mettersi a scrivere, s'accorse d'avere in casa soltanto una busta di carta da lettere. Pazienza, avrebbe aperto i fogli usandoli in tutta la loro ampiezza. Inzuppò la penna nel calamaio e scrisse con la sua più bella calligrafia: «Ricordi d'un cacciatore d'Africa». Poi cercò l'inizio della prima frase. Se ne stava lì, immobile, con la fronte appoggiata al palmo della mano, gli occhi fissi sul foglio bianco che aveva davanti. Che dire? Non ricordava più nulla ora di quanto aveva raccontato poco prima, non un aneddoto, non un fatto, niente. Gli venne d'improvviso un'ispirazione. «Devo cominciare dalla mia partenza». E scrisse: «Eravamo nel 1874, verso la metà di maggio, allorché la Francia stremata stava riprendendo fiato dopo le catastrofi dell'anno terribile». Ma si fermò di botto, non sapendo come introdurre il seguito, cioè l'imbarco, il viaggio, le prime emozioni. Dopo 10 minuti di riflessione, decise di rimandare all'indomani il cappello introduttivo ed attaccar subito con una descrizione d'Algeri. E vergò sulla carta: «Algeri è una città bianca bianca». Gli venivano confusamente delle idee. Le avrebbe forse sapute dire, ma non riusciva assolutamente a esprimerle per iscritto. E poiché quell'impotenza gli dava quasi la febbre, si alzò di nuovo, con le mani madide di sudore e il sangue che gli martellava le tempie. Lo sguardo gli cadde sul conto della lavandaia, portato su quella sera stessa dal portinaio, e all'improvviso fu colto da una nera disperazione. Tutta la sua allegria scomparve all'istante, in una con la fiducia in se stesso e con la fede nell'avvenire. Finito. Era tutto finito. Non avrebbe combinato nulla, non sarebbe diventato nessuno. Si sentiva vuoto, inetto, inutile, condannato. E tornò ad affacciarsi alla finestra, proprio mentre un treno sbucava dal tunnel con un fracasso improvviso e violento. Se ne filava via per campi e pianure, laggiù, verso il mare. e Duroy provò una fitta al cuore pensando ai genitori. Quel convoglio sarebbe passato vicino a loro, a poche leghe appena dalla loro casa. La rivedeva col pensiero la casetta in cima al colle che domina Rouen e l'immensa vallata della Senna all'ingresso del villaggio di Canteleu. Suo padre e sua madre gestivano un caffèuccio, una bettola, dove la domenica andavano a desinare i bravi borghesi dei sobborghi. Bella Vista si chiamava il locale. Avrebbero voluto far del loro figliolo una persona distinta e l'avevano messo in collegio. Giunto all'ultimo anno, senza riuscire a prendere la licenza, lui s'era arruolato con l'intenzione di diventare ufficiale, colonnello, generale. Ma disgustato della vita militare ancor prima d'aver finito i 5 anni di ferma, aveva sognato di far fortuna a Parigi. Ci s'era trasferito, appena congedato, nonostante le preghiere del padre e della madre che ora, svanito il loro sogno, avrebbero voluto tenerselo a casa. Ma era lui adesso a nutrire speranze per l'avvenire, a intravedere già il proprio trionfo grazie ad eventi che certamente avrebbe provocato e assecondato, anche se ancora confusi nella sua mente. Poi Duroy chiuse la finestra e cominciò a spogliarsi mormorando: «Ma domattina mi riuscirà più facile. Non ho la mente sgombra stasera. E poi, forse, ho anche bevuto un po' troppo. Si lavora male in queste condizioni». Si coricò, spense il lume e s'addormentò quasi subito. Si svegliò presto, come succede sempre nei giorni di viva speranza o preoccupazione, e saltato giù dal letto, aprì la finestra per bersi, come amava dire, un bel tazzone d'aria fresca. Sedette al tavolino, inzuppò la penna nel calamaio, appoggiò la fronte al palmo della mano e si mise in cerca di idee. Fatica vana. Non gliene veniva nemmeno una. Ma non si perse d'animo. Pensò: «Ma non ci sono avvezzo. È un mestiere che bisogna imparare come ogni altro. Devono aiutarmi le prime volte. Andrò da Forestier, che mi metterà in piedi l'articolo in 10 minuti. Giunse al portone dell'amico proprio sul punto in cui questi ne usciva. «To, a quest'ora che c'è?» Duroy, confuso dall'averlo incontrato così mentre se ne stava andando, balbettò: «C'è che io l'articolo non riesco a metterlo insieme. Sai quell'articolo sull'Algeria che m'ha chiesto Voltaire? Del resto non c'è da stupirsi troppo, dato che non ho mai scritto un rigo. Ci vuol pratica anche in questo, come in ogni altra cosa. Ci farò presto l'osso, ne sono sicuro, ma per prendere l'avvio non so da che parte rifarmi. Le idee ce l'ho tutte, ma non riesco ad esprimerle». Si fermò, un poco esitante. Forestier sorrideva malizioso. «L'ho provato anch'io». Duroy riprese: «Già, deve capitare a tutti le prime volte. Beh, ero venuto per dirti se puoi darmi una mano. In 10 minuti tu potresti mettermi in piedi l'articolo, indicarmi per qual verso va preso. Sarebbe una bella lezione di stile, altrimenti, senza di te, non so proprio come ne caverò le gambe». L'altro continuava a sorridere divertito. Diede un colpetto sul braccio all'ex compagno d'armi e gli disse: «Va su da mia moglie. È brava quanto me e ti sistemerà la faccenda. L'ho allenata in questo genere di lavori. Io stamani non ho tempo, se no l'avrei fatto io ben volentieri». Duroy, d'un tratto intimidito, esitava. Non ardiva: «Ma non posso mica presentarmi da lei a quest'ora». «Ma ti dico di sì, è già alzata. La troverai nel mio studio, sta riordinandomi certi appunti». Allora Duroy si decise: «Ti ringrazio, andrò. Ma le dirò che sei stato tu ad obbligarmi, letteralmente a obbligarmi». Forestier se ne andò tutto frettoloso, mentre Duroy prese a salir lentamente uno scalino dopo l'altro, cercando nel suo cervello le parole da dire e preoccupato dell'accoglienza. Gli aprì il domestico. Aveva un grembiule turchino e la scopa in mano. «Il signore è uscito», disse senza aspettar la domanda. Duroy insisté. «Chiedete alla signora Forestier se può ricevermi e ditele che mi manda suo marito». Restò ad aspettare. L'uomo tornò. Aprì un uscio a destra e annunciò: «La signora l'attende». Era seduta su una poltrona da ufficio, in una stanzetta con le pareti interamente nascoste dai libri, bene allineati su scaffali di legno nero. Si voltò, sorridente come al solito, avvolta in una vestaglia bianca ornata di pizzi, e gli porse la mano, mostrando il braccio nudo nell'ampia svasatura della manica. «Già qua», disse. Poi aggiunse: «Non è un rimprovero, è una semplice domanda». Lui balbettò: «Oh, signora, io non volevo salire, ma suo marito, che ho incontrato giù, m'ha costretto. Sono così confuso che non riesco nemmeno a dire perché sono venuto». Lei indicò una sedia. «Si sieda e mi dica». Incerto, Duroy mormorò: «Ecco, ma per la verità io non ho il coraggio. Ieri sera ho lavorato fino a tardissima ora. E stamattina mi sono alzato molto presto per scrivere l'articolo sull'Algeria che mi ha chiesto Voltaire. E non ho approdato a nulla di buono. Ho stracciato tutti i miei tentativi. Non ci sono abituato io a questo genere di lavori. Ed ero venuto per chiedere a Forestier d'aiutarmi, per questa volta soltanto». Lei lo interruppe ridendo di cuore, felice, divertita, lusingata. «E le ha detto di venire da me? Carino!» «Sì, m'ha detto che lei m'avrebbe tolto d'impiccio, meglio di lui. Ma io non osavo, non volevo, mi creda!» La signora Forestier si alzò. «Sarà simpaticissimo collaborare insieme. È un'idea che mi entusiasma. Su, si sieda al mio posto. Al giornale conoscono la mia calligrafia. Imbastiremo un articolo, ma di quelli, un articolo che sarà una cannonata!» Lui sedette, prese una penna, si spiegò davanti un foglio e restò in attesa. Rimasta in piedi, lei lo guardò fare tutti quei preparativi. Poi, allungata una mano, prese sul caminetto una sigaretta e l'accese. «Se non fumo, non riesco a lavorare. Su, cosa vuole scrivere?» Lui sollevò il capo, sorpreso. «Ma è proprio quello che vorrei sapere. Sono venuto qui apposta». «Ma certo», si riprese lei. «Le cucinerò io la faccenda. Le preparerò l'intingolo, ma mi ci vuole la pietanza». Lui continuava a starsene lì, imbarazzato. Infine disse esitante: «Vorrei raccontare il viaggio, fin dall'inizio». Allora lei gli si sedette davanti, all'altro capo dell'ampia tavola, e guardandolo negli occhi: «Su», lo esortò, «racconti prima a me, soltanto per me. Pian pianino, senza scordarsi nulla, e io sceglierò quel che c'è da prendere». Ma visto che lui non sapeva da dove rifarsi, cominciò a interrogarlo come fa il prete al confessionale, con domande precise, atte a ricordargli particolari sfuggitigli, personaggi incontrati, volti appena intravisti. Dopo averlo costretto così a parlare per un breve quarto d'ora, lo interruppe di colpo: «Adesso possiamo cominciare. Facciamo finta, intanto, che lei debba scrivere le sue impressioni ad un amico. Così sarà libero di dire un sacco di sciocchezze, di fare tutte le osservazioni che vuole, d'apparire naturale e speriamo di farcela divertente. Cominciamo. Caro Henri, vuoi sapere cos'è l'Algeria? E lo saprai. Poiché in questa baracchetta di fango che mi fa da abitazione son disoccupato, ti invierò una specie di diario della mia vita, scritto giorno per giorno, ora per ora. Sarà un po' spinto qualche volta, ma pazienza, non sei obbligato a mostrarlo alle signore di tua conoscenza. Si interruppe per riaccendere la sigaretta spenta e subito lo stridio garrulo della penna d'oca sul foglio cessò. La signora Forestier chiese a Duroy qualche ragguaglio topografico sull'Algeria, al cui proposito era assolutamente a digiuno. Le bastarono 10 minuti per saperne quanto lui, e buttò giù un capitoletto di geografia politica e coloniale per informare il lettore e per permettergli di capire i gravi problemi che sarebbero stati sollevati nei successivi articoli. Proseguì con un'escursione nella provincia d'Orano, una passeggiata tutta di fantasia, dove più che altro si parlava di donne, di maure, di ebree, di spagnole. «Il resto a domani!» esclamò ilare la signora Forestier. Poi aggiunse, alzandosi: «Ecco come si scrive un articolo, caro il mio signore. Firmi, per piacere!» Lui tergiversava. «Ma firmi, su!» Si mise allora a ridere e scrisse in calce alla pagina «Georges Duroy». Mentre lei continuava a fumare e ad andare su e giù, il nostro giovanotto se ne stava a contemplarla senza riuscire a trovare una parola di ringraziamento, beato e contento d'esserle accanto, pervaso di gratitudine e di sensuale letizia per quell'intimità nascente. A bruciapelo la signora Forestier gli domandò: «Che ne pensa della mia amica De Marelle?» Rimase sorpreso. «Ma la trovo molto attraente, vero?» «Eh, sì.» Avrebbe voluto aggiungere: «Non quanto lei, però.» Non osò. «E sapesse quant'è divertente, originale, intelligente, spensierata come una bohemienne. Sì, una vera bohemienne. Per questo suo marito non ne è entusiasta, ne vede soltanto i difetti, senza apprezzare le buone qualità.» Duroy si stupì che la De Marelle fosse sposata. Eppure era la cosa più naturale del mondo. Disse: «Ma come? È sposata? E cosa fa suo marito?» La signora Forestier alzò leggermente le spalle e le sopracciglia con un sol moto pieno di reconditi significati. «Ma è ispettore sulle ferrovie Nord. Passa 8 giorni al mese a Parigi. 8 giorni che sua moglie chiama il servizio obbligatorio, oppure la settimana di corvée o la settimana santa anche. Quando la conoscerà meglio, vedrà quant'è arguta e fina. Vada a trovarla uno di questi giorni.» Duroy non se ne sarebbe più andato. Gli pareva di poter restare sempre lì, d'essere a casa sua. Ma silenziosamente s'aprì la porta e un signore alto entrò senza essere annunziato. Si fermò, scorgendo un uomo. La signora Forestier apparve per un attimo imbarazzata. Poi disse con voce naturale, anche se una lieve vampa le era salita dalle spalle al volto: «Entri, entri, mio caro. Le presento un bravo compagno d'armi di Charles, Georges Duroy, futuro giornalista.» Quindi aggiunse con un altro accento: «Il conte de Vaudrec, il nostro migliore e più intimo amico.» I due si salutarono guardandosi nel bianco degli occhi e Duroy tolse subito il campo. Nessuno lo trattenne. Balbettò qualche ringraziamento, strinse la mano che gli aveva porto la giovane signora, si inchinò ancora una volta davanti al sopraggiunto che serbava un contegno freddo e compassato d'uomo di mondo e uscì turbatissimo, come se avesse commesso qualche sciocchezza. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce.